sai cosa fare. Mostro di un quintale si è arenato davanti al mare. Guido si domanda cosa avrà mai da guardare. Guido si domanda cosa avrà mai da guardare. Che la dolce vita l'hai rivisto proprio ieri sera. E l'occhio di quel mostro si è affondato nel...